dalle tempeste del vento, liberami dalle frecce, da ogni tormento, liberami dal tempo, da ogni pozzo profondo, dalla luna del tramonto, dalla frenesia del mondo, liberami da chi vorrebbe fare di me una mummia, una reliquia da immortalare, da crocifiggere su un altare. Liberami dagli oppressori, da chi succhia sanguisughe, la polvere negli occhi, una fuga piena di fughe. Liberami dall'energia che brucia la terra, dammi una mano, dammi una stella. Liberami dall'amore che parla solo di sesso, liberami dalla prigione di chi sputa su se stesso, liberami l'universo affinché io possa amarlo, schiudi i tuoi occhi belli, la tua chioma è il mio cappello, liberami una galassia dove pianterò lavanda, lascia che sia una cometa ad indicare la mia meta. Liberami dai pregiudizi che hanno un nodo in gola, da quelli che sanno tutto e poi ti sputano ogni sera. Liberami dagli sciacalli sotto sembianze umane, che sembrano degli agnelli, poi sono peggio delle iene. Liberami che sono stanco di essere appeso a un chiodo, indicami la strada del sole, l'aria, del mare, il fuoco. Donami un tuo respiro, saprò farne miracoli. Donami un tuo sorriso, tesoro per me nei secoli. Lascia la penuria sulla sua cattiva strada, aprimi le porte della tua casa, della tua vita. Ad ogni tuo passaggio mi troverai al tuo fianco, tu che di me sai tutto, tu che con me hai pianto. Anche se stai in silenzio, io ti porto dentro. Anche se sei lontano, restami vicino. Liberami che è il tempo di dare ciò che mi hai dato. Liberami un abbraccio, che sta piovendo e il cielo è cupo.